la buona è la mia medicina. Non è la Roma, la tua medicina. Distrugge la serotonina che causa la noia, per questo ti incolli in panchina. Viaggio ma solo mentale, non spiff, non lo fumo, ma solo un quintale. Ti suono ma solo bevale, il tuo ultimo testo risale, il 2000 lasciamo stare. Master trap, lui riconosce alle monster jam. Occhi monster red, fanno a gara chi la cucina meglio. Master chef, parli degli altri, quindi per me settimo falso, ancora che insisti per te. Qui non c'è posto cazzo, quindi succhiami un posto cazzo. Schiaccio, sei che ti credi guardati, non vedi che non sei nessuno. Pulisci sto culo, spostati quando passiamo, sembriamo un raduno. Dugo, ti sgamo dal viso che sei una serpe. Più finto di un beso, parti da Tesmer. Mamma ti prego, non voglio finire a sbloccare in un call center. Luce una paglia, quello che vedo si staglia. Ogni giorno una fottuta battaglia. Flow Kinawa, oh, ma davvero mischiano l'erba con l'aia. La tua crumo si dispaia. Sei vuoto, sei vile, finisci prima di partire. Se esci di stile, non voglio provarci solo per vedervi fallire. Buona, sì che la voglio buona, buona. Brucio la vita come quest'erba, so bene che fare qui come funziona. Flow Maradona, qui doppi passi con la Rabona. Non ci sorpassi, altri di zona. Qui tu collassi solo con la Roma. Buona, sì che la voglio buona, buona. Brucio la vita come quest'erba, so bene che fare qui come funziona. Flow Maradona, qui doppi passi con la Rabona. Non ci sorpassi, altri di zona. Qui tu collassi solo con la Roma. Non fottono a me, festi figli e buchini. Non sanno che faccio la prima mattina. Strunzi che piccio come cartina. Me fumetto quanti come asticina. Delino sta linea, ma porto lontano. Campare in Martina, ma sono in mano. Ancora cammino, pensando di mano. Ma marmo in mattina, scansano sti cani. Non sanno che lo canna fa con il mo. Fanno c'è soffrato, sfuga. Manco passi bitte, vogliavamo si chiamato. Dimmi mi è hard come film. Cavo io guardato, una banda di bastardo. Cade ci si fa foto frate. Tu guardi c'è buona, polassi c'è perda. Porta evoluzione, vedecchia sti merda. Stile evergreen, come a che sterpa. Che stesso ogni solito, team va smerda. Tu guardi c'è buona, polassi c'è perda. Porta evoluzione, vedecchia sti merda. Stile evergreen, come a che sterpa. Che stesso ogni solito, team va smerda. Buona, sì che la voglio buona, buona. Brucio la vita come quest'erba, so bene che fare qui come funziona. Flow Maradona, qui doppi passi con la Rabona. Non ci sorpassi, altri di zona. Qui tu collassi solo con la Roma. Buona, sì che la voglio buona, buona. Brucio la vita come quest'erba, so bene che fare qui come funziona. Flow Maradona, qui doppi passi con la Rabona. Non ci sorpassi, altri di zona. Qui tu collassi solo con la Roma.